l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale dedicato all'Europa in collaborazione con il network Euronet Plus. Cerchiamo di dare voce all'Europa, lo facciamo tutto l'anno. Questa settimana l'Europa è diventato il cuore anche di tante manifestazioni, tante iniziative, tanti ragionamenti, proprio perché è la festa dell'Europa. Con Radio 24 abbiamo scelto di celebrare la festa con un sondaggio che abbiamo lanciato sul nostro sito, sondaggio che si è chiuso ieri sera, ma voglio rilanciarvi le domande alle quali potete ancora rispondere volendo via sms al numero 349-238-6666, su Facebook, sulle nostre pagine ufficiali facebook.com/l'altra Europa, oppure molto più velocemente via Twitter, l'account è il mio personale, @ Federico Taddia. Le due domande erano, sono: cosa rappresenta per te l'Europa? Le varie opzioni: un'opportunità, un'occasione persa, un'esigenza, un dispendio di soldi, un vincolo, oppure cosa vorresti dall'Europa? Meno burocrazia, più solidarietà, più potere, meno interferenza nei singoli stati, più fondi. Queste le nostre opzioni, però la risposta è anche aperta, se avete voglia di così festeggiare con noi quest'idea, questa grande famiglia ormai che è l'Europa, quindi al di là di un concetto, al di là di un sogno, un qualcosa che sta nascendo tra mille difficoltà e mille complicazioni, non lo nascondiamo, però crediamo fortemente che la strada intrapresa sia quella giusta. Oggi parleremo di questo con Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, lo faremo anche con Lorenzo Giovanotti da New York, che ci racconterà la sua idea di Europa. E partiamo da quello che sembra l'ostacolo, uno degli ostacoli principali per questa auspicata unione: la lingua. Trenos impotentes, gute travel nada, prisoners van multiplas fronteras, moi siempre hay departure trimingantes, discover infinites continentes, ahora in Europa can. Muchas cosas, ma che spiche tanta linguas. Go donde prefere ahora. Quello che state ascoltando è Paolo Bergamaschi, cantautore, consulente del Parlamento europeo. Sta cantando in Europanto, una lingua, una neolingua ideata e inventata da Diego Marani, che è scrittore e funzionario della Direzione Generale Interpretazione alla Commissione Europea e quindi una delle persone più autorevoli per col quale ragionare su questa lingua, su queste lingue che fanno e disfano l'Europa. Diego Marani qua con noi. Ciao Diego, benvenuto all'Altra Europa. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Il ragionamento parte dalle tante considerazioni che si stanno facendo sulla lingua o sulle lingue, nel senso che ci sono tre lingue ufficiali, che sono il tedesco, il francese e l'inglese, all'interno di un'unione che di lingue ne ha 23. E qualcuno dice basterebbe usarne una, si risparmierebbe tantissimo in carte, in traduzioni, però vorrebbe dire probabilmente tagliare fuori, almeno dal punto di vista culturale, tutte le altre lingue. So che sono veramente riflessioni che fate quotidianamente anche all'interno della Direzione Generale Interpretazioni. Ci puoi fotografare quella che è la situazione, Diego? Sì, rapidamente però devo correggerti. Le lingue ufficiali non sono tre, le lingue ufficiali sono tutte, perché la nostra unione è fondata sull'uguaglianza dei nostri popoli e quindi non ci sono lingue che valgono di meno, ma le lingue che valgono di più. Ma come noi cittadini, siamo tutti uguali e le nostre lingue sono tutte uguali. Quindi in teoria qualsiasi nostra lingua è ufficiale e in pratica qualsiasi cittadino si può rivolgere a noi nella sua lingua e noi gli risponderemo nella sua lingua. Poi noi, chiaramente, che da ormai più di 50 anni lavoriamo insieme per costruire l'Europa, abbiamo sviluppato delle lingue procedurali, che sono il francese, il tedesco e l'inglese, le lingue più parlate per questioni statistiche e che noi usiamo di più nel nostro lavoro quotidiano. Okay. È vero che la lingua è vista spesso come un ostacolo nella costruzione dell'Europa unita, ma è anche vero che spesso si fa tanto rumore per nulla. perché piano piano ci arriveremo all'Europa multilingue che avevamo e che con le due guerre mondiali abbiamo distrutto. Non dimentichiamolo questo. Una volta gli europei erano molto più multilingui e quello che stiamo costruendo oggi, fornendo da un lato le traduzioni che servono e l'interpretazione che serve e dall'altro il sostegno all'insegnamento linguistico, ecco, quello che stiamo costruendo proprio oggi è questo multilinguismo perduto. Quindi non c'è da stupirsi, ecco, se la questione della lingua è centrale per l'Europa e se sembra un ostacolo. Sembra un ostacolo, è un ostacolo che col tempo scomparirà e che sta già scomparendo. Del resto è anche molto spesso una questione di percezione e di mentalità. Se noi ci pensiamo, noi italiani, anche oggi, ma soprattutto molti anni fa, non parlavamo la stessa lingua. Noi tutti sapevamo l'italiano che imparavamo a scuola, ma poi fra di noi parlavamo delle lingue spesso incomprensibili per l'uno o per l'altro. Questo però non ci impediva e ancora oggi non ci impedisce di considerare un calabrese, un napoletano o un alto atesino italiano come noi. Certo. Quindi la lingua non è indispensabile per la percezione di appartenenza. Noi italiani ci percepiamo tutti italiani, spesso malgrado la lingua, ecco, anche noi europei possiamo percepirci tutti europei, anche se non capiamo di tutti la lingua. Vamos enfantos del Europanto, wir schallen glanto, spicare not, des summer cursos la tirannie, wir sei tu dag, che basta ja, wir sei tu dag, che basta ja. Ancora l'Europanto all'altra Europa, ne parliamo fra pochissimo, Diego, di questo Europanto. Prima però è una provocazione, quindi, quella di chi chiede che sia l'inglese come unica lingua ufficiale per capirsi meglio, per risparmiare soldi, per rendere tutto più semplice? Ma direi che oltre ad essere una provocazione è un sopruso, perché è l'imposizione a tanta gente di una lingua che non è la sua. Io di lingue ne parlo tre e parlo anche l'europanto, quindi non avrei problemi in questa Europa del totalitarismo linguistico, ma vorrei vedere tutti gli italiani e francesi e tanti altri che non parlano l'inglese come vivrebbero se dovessero presentare i loro bandi di gara in inglese, se dovessero i nostri agricoltori ottenere i sussidi europei scrivendo e presentando le loro richieste in inglese, come vivrebbero le imprese che dovrebbero partecipare alle gare europee in inglese, come vivrebbe chi viene qui a difendere gli interessi italiani se dovesse difenderli sempre e solo in inglese, si è molto meno eloquenti in una lingua straniera e in questo modo non sarebbe più l'Europa dei popoli, sarebbe l'Europa di un popolo che impone non solo la propria lingua, ma anche la propria visione del mondo agli altri. È profondamente ingiusto, non è più democrazia, non è più l'Unione Europea, è un sistema totalitario. Certo. Non credo che sia la soluzione che gli europei vogliono. Assolutamente. E Diego, in conclusione, abbiamo ascoltato qualche frammento di Europanto. Una lingua nata per gioco, potrebbe essere questa la soluzione? L'Europanto è la mia provocazione contro l'integralismo linguistico. Noi abbiamo troppa paura di imparare le lingue, ma se facessimo quello che poi i nostri governi si sono impegnati a fare, cioè insegnare a tutti gli europei due lingue oltre alla propria, matematicamente presto gli europei parlerebbero ognuno tre lingue e da un punto di vista statistico troverebbero sempre la lingua con cui intendersi. Ecco, il blocco per arrivare a questo è la nostra paura di imparare le lingue. L'Europanto mostra che le lingue sono un gioco, che si può impararle giocando, che non sono poi così difficili e così diverse l'una dall'altra. E questo è lo spirito della mia idea, che non si vuole lingua artificiale e lingua sostitutiva di tutte le nostre belle lingue naturali. Anzi, serve proprio a far questo, ecco, a spingere la gente ad avere maggiore curiosità per le altre lingue e a provare a impararle. Si fa prima di imparare due o tre lingue che a essere succubi di una lingua unica. Grazie davvero a Diego Marani, scrittore e funzionario della Direzione Generale Interpretazione della Commissione Europea. Come ci si saluta in Europanto? Beste saludos und optime weekendo. Weekendo l'abbiamo capito. No, abbiamo capito tutto. Anche il resto, esatto. Ciao Diego, grazie. Buon sabato. Ciao, grazie. Ciao. Europost-it. Linguaggi europei in iTilt. Siete insegnanti di lingue di diversi livelli? Siete in cerca di risorse didattiche, idee per coinvolgere i vostri studenti, video in lingua originale da mostrare, materiali, link e libri? Il progetto europeo iTilt potrebbe esservi d'aiuto. iTilt, acronimo di Tecnologie Interattive per l'Insegnamento delle Lingue, è un progetto finanziato dalla Commissione europea in collaborazione con diversi istituti di lingue e università europee, volto a sostenere gli insegnanti di lingue attraverso svariate risorse didattiche con materiali in più di 6 lingue, interattivi, accessibili online e soprattutto gratuiti. Basta accedere al sito e si può scaricare tutto gratuitamente. Siete curiosi? Andate su itilt.eu. Festa dell'Europa, oggi è la Notte Blu a Firenze, dove si sta celebrando, è un po' il cuore delle tante attività organizzate in tutta Italia. Ci sarà una 24 ore interamente dedicata all'Europa. Ieri al Maxi di Roma, una giornata con tantissime scuole. Al Teatro Parenti, qui a Milano, c'eravamo anche noi di Radio 24, ieri sera ho partecipato a un dibattito dove abbiamo parlato proprio ai giovani di quelle che sono le opportunità, le possibilità dell'Europa, quindi l'Europa che entra nella quotidianità, che entra come e con proposte concrete che magari non ti cambiano la vita, anche sì, però te la possono migliorare, ti possono dare gli strumenti per fare esperienze, per metterti in gioco. Anche questo è il significato della Festa dell'Europa e proprio in questi giorni di Festa dell'Europa il nostro Gigi Donelli ha intervistato Martin Schulz, il presidente del Parlamento europeo, un'intervista che adesso andiamo ad ascoltare integralmente. Inizialmente Schulz ha risposto anche in italiano, poi gli abbiamo dato la possibilità di rispondere anche in inglese perché era ovviamente più semplice. Ascoltiamo quello che ha risposto a Gigi Donelli. Festa dell'Europa, cosa dobbiamo festeggiare? Celebrare l'Europa oggi vuol dire impegnarsi per cambiarla. Abbiamo bisogno di un'Europa più democratica, più trasparente, più giusta. La festa dell'Europa serve come monito per il futuro. I diritti e le libertà che diamo per scontate sono il frutto delle battaglie fatte dalle generazioni prima di noi. Celebrare l'Europa oggi vuol dire non dare per scontati i valori europei, ma renderci conto che solo insieme possiamo difenderli. Solo insieme possiamo rendere l'Europa di domani il luogo dove i nostri figli possano vivere in pace, libertà, solidarietà e prosperità. Presidente Schulz, cominciamo dalla disoccupazione giovanile, un vero dramma per molti. Io credo che questa sia assolutamente la priorità più alta. La disoccupazione dei giovani in Europa è assolutamente inaccettabile. Noi siamo il continente più ricco del mondo, ma in alcuni nostri stati membri il 50% dei giovani è senza lavoro. E questo è una vergogna. Dobbiamo fare di tutto per intervenire. E questo è un pensiero condiviso da un'enorme maggioranza dei membri del Parlamento europeo. La priorità principale deve essere combattere contro la disoccupazione dei giovani. Rigore sul budget e crescita. Negli ultimi tempi questi due temi sono stati vissuti come contrapposti. Dove troviamo un punto di equilibrio? Dobbiamo trovare un equilibrio. E trovare un equilibrio vuol dire dare accesso al credito alle piccole e medie imprese. Il problema più grosso di questo momento è che abbiamo molto lavoro da fare. In Italia, in Spagna, in Francia, in Grecia, a Cipro, nell'Est Europa. C'è una lunga lista di idee di impresa su cui lavorare. Dobbiamo investire in ricerca, in sviluppo, nelle infrastrutture, in energie rinnovabili, in modernizzazione delle infrastrutture stesse. Il problema più grande però, specialmente per le imprese più piccole, è ottenere denaro. Quindi per creare crescita abbiamo bisogno di un programma di credito per le piccole e medie imprese. E questo è sempre connesso all'occupazione. Perché le piccole e medie imprese sono quelle che impiegano la maggior parte delle persone. Quindi investire nelle PMI è direttamente collegato alla lotta contro la disoccupazione dei giovani. Un programma di crediti per le piccole imprese è dunque il primo passo per creare crescita. Questo non ci permetterà di sfuggire dalla disciplina di bilancio, che è indispensabile, ma non troveremo nessuna nuova forma di equilibrio di bilancio senza sostenere la crescita. Presidente Schulz, Croazia al 1 luglio, Serbia all'orizzonte. Stiamo parlando già dell'ingresso della Turchia. Non è che stiamo chiedendo troppo ai cittadini europei? Io credo che al momento l'Unione Europea si dovrebbe riformare e dobbiamo risolvere i nostri problemi internamente prima di discutere di allargamento. Insisto sull'allargamento verso i nostri vicini dei Balcani occidentali, che erano membri dell'ex Jugoslavia, come la Serbia o la Macedonia, presto o tardi arriveranno ad unirsi a noi. Però per adesso abbiamo il dovere di lottare contro la recessione, contro la disoccupazione, e dobbiamo trovare il modo di riacquistare la fiducia dei cittadini europei. Poi, dopo, possiamo discutere di allargamento. La priorità quindi per noi, per il momento, è trovare un equilibrio sociale, un equilibrio economico all'interno dell'Unione Europea. Come sa, Presidente, all'interno del nuovo governo abbiamo anche un ministro nato in Germania, una pluricampionessa olimpica. Non crede che un approccio in stile un po' più tedesco sarebbe saggio per la cultura politica italiana? Difficile rispondere a questa domanda. Diciamo che sono molto felice che Josefa Idem sia ora un ministro italiano. La conosco, ho seguito i suoi successi sportivi e credo che Josefa Idem sia un simbolo dell'Europa in cui viviamo. Un giorno sarà assolutamente normale che ci sia anche un membro di origine italiana in un ufficio di governo tedesco e succederà presto o tardi. Inoltre penso che quello che Enrico Letta mostri sia che l'Italia è un paese aperto, con una società aperta. Non è solo Josefa Idem, anche Cecil Chiang è un altro esempio di una società con la mente aperta. E un ministro di origini africane in un governo in Italia è un segnale molto buono. Mi congratulo con Enrico Letta per la decisione di aver scelto entrambe. Significa che stiamo vivendo in una società europea e internazionale. Ed è proprio questa l'Europa che vorrebbe in questi giorni di festa dell'Europa? Sì, perché prima di tutto siamo esseri umani. E poi siamo neri, bianchi e rossi, e poi siamo di sinistra, di destra, e poi siamo italiani e tedeschi. L'idea di Europa è prima di tutto una questione di dignità e rispetto reciproco per tutte le persone che vivono nel nostro continente. Grazie a Martin Schulz per questa intervista. Un po' di messaggi via Twitter che sono arrivati. Marco Bersanti ci dice: l'Europa è una famiglia forzata dove i componenti non solo non si capiscono ma si invidiano e cercano di sopraffarsi. Mentre Fulvio Ponte dice: dall'Europa vorrei uno scambio di governanti, per un anno ci prendiamo gli svedesi, li diamo i nostri, proviamo dai, che insomma è anche questa una provocazione. Qual è l'Europa che vi piacerebbe, cosa vorreste dall'Europa? 3492386666 per i vostri sms oppure via Twitter, l'account è Federico Taddia. In questa festa dell'Europa tantissime iniziative lanciate sia dal Parlamento Europeo che dalla rappresentanza della Commissione Europea qui in Italia. Ne abbiamo scelta una perché così ci sembrava particolarmente significativa. Le politiche giovanili in collaborazione con il movimento Punto Europa, associazioneeuropa.org e il sostegno della provincia autonoma di Trento hanno organizzato un treno per l'Europa, un viaggio per capire, un viaggio per essere. Sono stati selezionati una ventina di giovani e hanno fatto questo viaggio nel cuore dell'Europa, direzione, se non erro, Berlino. Con noi due ragazzi che hanno partecipato: Nicola Riz, studente di economia all'Università di Trento, e Giorgiana Ciotte, studia sociologia sempre all'Università di Trento. Ciao Nicola, ciao Giorgiana. Ciao. Ciao. Ciao. Nicola, raccontaci chi eravate e cosa avete fatto. Ma noi eravamo 20 giovani e delle universitari, appunto, provenienti da Trento e provincia, e assieme ad altri ragazzi del liceo scientifico Leonardo da Vinci, sempre della nostra città, e ci siamo incontrati sul treno poi con i nostri compagni di viaggio di Brescia, che erano altri ragazzi sempre liceali. Mm-hmm. E appunto, come hai detto, la destinazione è stata Berlino, dove abbiamo visto la città, ma anche e soprattutto, direi, conosciuto dei berlinesi con i quali abbiamo parlato e abbiamo incontrato le istituzioni locali a Charlottenburg, che è il quartiere gemellato con Trento, e con i quali abbiamo potuto scambiare quattro chiacchiere sull'Europa e su quelli che sono, diciamo, di come è vissuta anche in un altro paese. Certo. Giorgiana, cosa vi siete portati a casa, appunto, in chiave europea da questa esperienza? Allora, innanzitutto la storia del muro mi ha lasciato capire che grazie a questa caduta è stato possibile integrare l'Unione Europea con l'arrivo dei paesi dell'Est, che soltanto così hanno potuto unirsi a questa grande famiglia. Invece l'impressione vera e propria che mi ha lasciato Berlino è stato di un grandissimo dinamismo, di un cantiere che è perennemente in costruzione sia dal punto di vista artistico che culturale, e penso che questo sia un attributo fondamentale per le basi dell'Unione Europea, in quanto bisognerà puntare soprattutto sull'integrazione dei cittadini prima ancora delle istituzioni. Certo, una domanda secca anche per voi. Nicola, cosa vorresti tu dall'Europa? Ma io vorrei un'Europa più vicina, perché secondo me soprattutto a livello locale, da noi giovani, da noi cittadini anche, l'Europa è spesso vista come un'entità astratta e lontana, una cosa quasi chiusa nei palazzi di Bruxelles, della BCE, di Strasburgo, e questo secondo me è un male perché non permette al cittadino proprio di partecipare attivamente alla vita istituzionale e politica europea. Quindi quello che mi auguro, che mi auspico anche per il futuro, è di vedere un'Europa più vicina, più desiderosa di entrare in contatto con i cittadini e anche più disponibile a pubblicizzarsi, a far vedere quelle che sono le sue potenzialità, che secondo me sono tante e che devono essere capite molto, certo, spesso. Giorgiana, tu invece cosa vorresti dall'Europa? Io d'altra parte vorrei anche i cittadini più uniti con lo scopo comune dell'Europa, magari attraverso associazioni, e non aspettare sempre informazioni che provengono attraverso la scuola, insomma muoversi ed essere cittadini attivi anche noi stessi. Mi sembra un ottimo promo per l'Unione Europea, insomma, le vostre parole le useremo sicuramente, le faremo nostre. Grazie a Nicola, grazie a Giorgiana per averci testimoniato la loro esperienza in questo treno per l'Europa. Adesso la pubblicità, poi torniamo con i risultati del sondaggio e Lorenzo Giovanotti. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'Altra Europa, facebook.com/l'altraeuropa, oppure Twitter, l'account è Federico Taddia, se volete interagire con noi. Radio24.it è il sito dal quale potrete riascoltare la puntata. Il sondaggio di Radio 24 che abbiamo lanciato questa settimana: l'Europa cosa rappresenta e come la vorresti? Erano due le domande. La prima: cosa rappresenta per te l'Europa? Queste le vostre risposte. Il 29% ha risposto una opportunità, il 28% invece, quindi poco meno, un'occasione persa, un'esigenza al 15%, un dispendio di soldi il 14%, un vincolo l'11%. Quindi quasi lo stesso risultato per una opportunità e un'occasione persa, una sorta di chi guarda avanti, chi guarda indietro, quindi la consapevolezza che può essere un qualcosa di importante, ma c'è anche una sorta di rassegnazione. Questo è sicuramente un periodo storico dove l'Europa paga la crisi, dove l'Europa non è molto di moda, dove l'euroscetticismo è crescente, però c'è ancora chi vede nell'Europa, per fortuna, un'opportunità, ma in tanti ritengono questa è un'occasione persa, quindi poteva essere, ma non si è ancora riuscita a costruire quella vera opportunità. Cosa vorresti dall'Europa invece? Era la seconda domanda. Queste le risposte. Anche qui un punteggio simile nelle prime quattro risposte: meno burocrazia al 26%, più solidarietà al 25%, più potere il 23%, e dall'altra parte invece il 21% che dice meno interferenza nei singoli stati, una sorta di indecisione. Però questa burocrazia che tanto spaventa, sì, la richiesta è che sia meno, che sia più facile, che sia più comprensibile, più solidarietà, quindi l'Europa che non è solo forte coi deboli, ma l'Europa è quella che può anche darti una mano. Più potere, meno interferenza nei singoli stati, si equivalgono, quindi qui insomma ci sono anche differenze di veduta. Chi chiede più fondi invece è solo il 4%, nel senso che i fondi ci sono, il problema è andarli a prendere, questi fondi. Di Europa questa settimana ne abbiamo parlato, oltre che col sondaggio, anche con un ospite d'eccezione. Stiamo andando a New York, perché anche da New York si può vedere l'Europa. Con noi c'è Lorenzo Giovanotti. Ciao Lorenzo! Ciao Federico, ciao a tutti, buongiorno. Parlare di Europa, ci colleghiamo con l'America. È vero. Ma infatti, guarda, tanto mi piaceva capire. In effetti il libro di Tocqueville, no? La democrazia in America, giusto? Sì, sì, esatto. È uno dei testi fondamentali anche del pensiero europeista, no? O no? Sbaglio. No, è vero. Castroneria. Sai che noi stiamo parlando tanto di Europa, ma qui dall'Europa, tu da lì, da New York, in questi mesi, che percezione hai avuto dell'Europa? Si respira? Cioè, come la si vede da lontano l'Europa? Devo dire che l'Europa, in America l'Europa non è percepita, secondo me. In America è percepita l'Italia, è percepita la Francia, è percepita... non ci sono ristoranti europei, come dire, no? Andiamo a mangiare europeo stasera? No, si va a mangiare italiano... Oppure che ascoltiamo un po' di musica europea, no, si ascolta la musica italiana, si ascolta la musica francese, si ascolta la musica inglese, si ascolta la musica danese, meno, però nella dance sì, perché poi nella dance in realtà, quindi diciamo che in realtà noi siamo la mia è una generazione che sogna l'Europa e in qualche modo anche da sempre, per quanto mi riguarda, si attiva per fare l'Europa, non solo l'Europa della finanza, ma l'Europa, diciamo, delle persone e quella cosiddetta dei popoli. Gli americani sono molto meno interessati a questo nostro sbattimento. Probabilmente sul piano economico sono più impauriti che interessati, no? Non lo so, mi sembra, però io lì entriamo in un ambito dove preferirei intervenire, perché anche noi ho dei casini io con la spesa quando vado a comprare la frutta, penso che devo parlare di economia. Però hai citato la tua formazione, cioè tu l'hai sempre respirato un po' l'Europa, probabilmente grazie alla musica è stata quella la tua porta verso l'Europa? È stata la musica, ma non solo, è stata è una sensazione che io ho sempre avuto, insomma, un'apertura un'apertura, una naturalezza verso un'idea di Europa. Io sono comunque della generazione, anche se non l'ho fatto, ma sono della generazione dell'Erasmus, no? E che devo dire che è stata una grandissima cosa, perlomeno penso che sia stata una delle cose più belle fatte dalla nostra politica, se vogliamo, no? Negli ultimi decenni. E quindi sono qui di quella generazione lì, io ci credo, perlomeno ci investo anche speranze, no? Nell'idea che comunque l'Europa sia qualcosa al di là di una moneta unica, che poi unica non è, nel senso che è unica al momento in cui con un euro ci compri le stesse cose in Germania e in Italia, ma sappiamo che non è così, no? Certo. Quindi in realtà è una moneta unica, per modo di dire, una moneta che aspira all'unicità, diciamo così, aspira all'unicità, ma per adesso è un'aspirazione non soddisfatta, direi, no? Oggi ci stiamo un po' chiedendo, un po' così come sondaggio, tu cosa vorresti dall'Europa? Così, se uno ti facesse questa domanda secca, qual è la prima risposta che daresti? Ma io vorrei intanto un Parlamento europeo vero, vorrei un presidente europeo eletto dagli europei, perché no? Uh-huh. Vorrei una politica europeista più europeista, nel vero senso della parola, ovvero più indirizzata verso una vera idea di nazione delle nazioni, diciamo così. Questa cosa mi piace pensare che mia figlia sia un'italiana al 100% e un'europea al 100%. Oggi le identità multiple sono possibili, sono necessarie addirittura, nessuno oggi ce la fa più da solo, con un'identità sola. Nessuno di noi oggi è in grado, secondo me, di affrontare il futuro con un'unica identità. Ce ne vogliono almeno due o tre, sono il minimo, certo. Diciamo così. Quindi di partenza una doppia identità, italiana, europea, mi sembra un punto di partenza ancora non realizzato, nel senso che la maggior parte degli italiani si sentono italiani ma non si sentono europei. Assolutamente. E, io nel mio caso invece io non solo mi sento italiano, mi sento europeo ma mi sento anche qualcos'altro, e quindi in questo senso secondo me è da perseguire. E, quindi, e come si fa? Si fa con le politiche culturali, non solo con le politiche economiche, si fa con un grande investimento in politiche culturali, si fa con un grande investimento nella nostra, nel nostro mercato culturale, che vuol dire la musica, vuol dire il cinema, vuol dire quelle cose lì, e la scuola, l'educazione, l'Erasmus secondo me è un punto di partenza. Dovremmo avere delle università che siano veramente europee, dei teatri che siano veramente europei, delle radio che siano veramente europee, delle televisioni che siano veramente europee. L'ostacolo della lingua non è un ostacolo, è una ricchezza, è una possibilità in più. Oggi io perlomeno la vedo così, ma sai, con me ci vai a... Sai, la contaminazione del tuo DNA, e quando parli di Europa tu... È nella mia natura, è nella mia formazione, comunque è un po' così. A me piace, mi sembra che la diversità sia sempre una ricchezza, non sia mai un problema. O perlomeno è anche un problema, ma è più una ricchezza che un problema. E quindi questo bicchiere insomma va visto sempre un pochino più pieno che vuoto. Questo è il futuro auspicato da Lorenzo Zanotti per l'Europa. Il tuo auspicato, puoi capire come lavorarci, quello è... Però già... Io faccio il suo, ecco. Esatto. Io faccio la mia parte, che è quella di fare una musica che sia una musica in italiano, con una lingua meravigliosa dentro la quale noi tutti abitiamo, ma con un'aspirazione insomma che sia un po' più europea, perché esiste un sound europeo. E Giovanotti, Lorenzo, questo è il futuro dell'Europa, il tuo futuro invece è molto più a breve termine, il ritorno in Italia, gli stadi che ti aspettano, ti tremano un po' le gambe? Sì, mi trema le gambe, lo sento che sono un po' nervoso, sono un po' incinto, me ne rendo conto, lo sento, sono un po' di nervosismo, quasi quello delle femmine. E poi sei all'ottavo mese, perché ci siamo quasi, manca... Bravo, quello lì che ce l'ha, che sono suscettibile, con tutto, però è normale, insomma, sto per fare una cosa importante, capisco che che non lo sia per tutti, ma per me lo è, insomma, è la mia tournée più importante, per cui io la vivo con una grandissima partecipazione emotivo, fisica, erotico, sentimentale. Decine di migliaia di persone che ti aspettano, e anche noi siamo lì ad aspettarti, quindi non vediamo l'ora di riempire gli stadi. Divertiremo. Tutto questo è per fare una cosa che poi sarà divertente, quando poi vado sul palco il nervosismo passa e lì c'è solamente la goduria. Lorenzo, grazie come sempre per il bel messaggio. Grazie a te, Federico, un abbraccio a tutti, viva l'Europa, viva l'Europa! Buone prove, bello, ciao! Bello. Ciao, ciao, ciao! Eppure a questo vuoto, tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva, nessuno si disseta ingoiando la saliva. Ci vuole pioggia, vento e sangue nelle vene, pioggia, vento e sangue nelle vene, e sangue nelle vene, e sangue nelle vene. Un grazie a Lorenzo Giovanotti, e ci piaceva tensione evolutiva. L'altra Europa. Imam Baildi, un gruppo che fa remix di musica tradizionale greca. Chiudiamo questa puntata dedicata anche alla festa dell'Europa andando in Grecia, proprio per darvi un esempio concreto di cosa significa per noi pensare europeo, cioè pensare già con la testa in mobilità, che non vuol dire scappare dal proprio paese d'origine, ma vuol dire uscire, fare esperienza, contaminarsi, come ha detto anche Lorenzo Giovanotti, fare di tutto ciò tesoro per creare qualcosa di nuovo. Ed è quello che ha che hanno realizzato un gruppo di giovani greci tra i 20 e i 30 anni. Sono quasi tutti diplomati in architettura e design, senza lavoro perché la crisi c'è e non va negata, però hanno trovato un'idea vincente. Loro, viaggiando per l'Europa, hanno capito che si poteva proporre anche una forma di turismo alternativo, e questo turismo alternativo l'hanno portato ad Atene. C'è con noi Maria Pettinakis, architetto e una delle ideatrici di questi particolari tour che loro propongono ad Atene. Ciao Maria. Ciao. Ciao, benvenuta all'Altra Europa. Ho capito bene, vero? Siete un gruppo di amici, un gruppo di studenti, e vi siete ispirati a esperienze simili che avete visto in Europa per realizzare cosa? Facciamo giri alternativi di Atene, cioè proviamo a dimostrare un'Atene un po' diversa, quella che ci piace, un'Atene un po' creativa, che ispira un po' la gente, sia i greci che i turisti. Mm-hmm. Cosa vuol dire Atene alternativa? Ci puoi fare qualche esempio dei vostri itinerari? Tutto quello che è diverso dei giri tradizionali di Acropoli e le cose antiche. Parliamo molto di architettura contemporanea, sì. Di street art, di movimenti sociali, abbiamo dei giri di bicicletta, di nightlife. Mm-hmm. Sì, tutto ciò che non è usuale ad Atene. Tour a costo medio-basso, si parla di cifre che tra i 10 e i 20 euro. Sono solo turisti quelli che partecipano ai vostri tour, o anche i cittadini, anche i locali apprezzano i vostri itinerari? Ma ci sono anche dei locali, alcune volte se il tema gli interessa molto, per esempio ci sono tanti che fanno un studio sui street art, allora come noi abbiamo tanta informazione è veramente interessante per loro, oppure per esempio studenti di architettura, sì. E poi facciamo anche dei giri gratuiti una volta al mese. Mm-hmm. Scusate, mi sento due volte. c'è un po' di eco, scusaci. E dunque su questi giri gratis la più grande parte sono greci. Mm-hmm, okay. Maria, intanto se ci vuoi dare un sito internet o la pagina Facebook per avere informazioni. Allora, il sito, sì, è atafen.org, sì. E su Facebook è Alternative Tours of Athens. Perfetto. Un page. Maria, un'ultima domanda prima di salutarci. Cosa significa oggi essere un giovane che vuole rimanere ad Atene? Cosa vuol dire essere un giovane laureato, con dei sogni, con delle speranze, e non voler mollare, cioè essere lì e tentare di farcela? È una cosa difficile, bisogna avere molto volontà di rimanere qui, cioè abbiamo tutti molti amici che sono partiti all'estero, però se tutti partono non c'è soluzione per la Grecia, dunque bisogna veramente amare il posto e bisogna essere creativo per creare nuovi lavori, perché non ci sono più i lavori pronti. Mm-hmm. Quindi la creatività come chiave vincente. Tante volte, parlando della Grecia, abbiamo parlato di sentimenti molto simili alla rassegnazione. Secondo te questo riscatto economico può partire proprio dai giovani? Ma penso di sì, perché è comunque loro che hanno tutta l'energia, le nuove conoscenze, le influenze dall'estero, tante nuove idee, che sono loro che possono fare rimuovere un po' la macchina. Mm-hmm. Oggi noi parliamo spesso di Europa, qual è il sentimento che accomuna i giovani greci? Cioè, siete arrabbiati con l'Europa? Tanti, è vero. Sì. Oppure sono arrabbiati, oppure se ne vanno per l'Europa. Ok, quindi anche lì è un'occasione persa, una opportunità, che è la doppia faccia che stiamo raccontando oggi anche con, sì, il nostro sondaggio. Grazie davvero Maria, complimenti a te e a tutti i tuoi colleghi per questa bella avventura. Buon lavoro. Grazie a voi, ciao. Questo grazie va anche a tutta la squadra dell'Altra Europa, Margherita Aina e Miriam Lucchetti che con me hanno scritto la puntata, Giorgio De Luca oggi in assistenza, Carmelo Lauricella in regia. Vi ricordo radio24.it, il nostro sito dal quale potrete riascoltare la puntata, ci trovate via email l'altraeuropa@radio24.it, via Facebook oppure su Twitter, l'account è @FedericoTaddia. L'appuntamento con l'Altra Europa come sempre a sabato prossimo alle 10. Ancora ciao. L'Altra Europa in collaborazione con Euronet Plus.